sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti, questa è Blu Radio Veneto, all'interno della programmazione serale chiamata Blu Radio Sera. Sono le 21 e 2 minuti primi in questo istante. Oggi è martedì 6 dicembre del 2011, ancora 25 giorni e poi potremo dare una nuova data all'anno soprattutto. Buonasera da parte di Flavio Bilato e da chi è assieme a me in questo martedì sera, Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, abbiamo un ospite in questa serata che ci propone la sua terapia dei sogni, un ospite che arriva direttamente da Pisa e quindi come salutarlo un pisano? Il pisano infedele. Si dice buonasera. Buonasera ad Andrea Carboni. Buonasera a voi, grazie mille. Allora, ha fatto buon viaggio intanto Andrea? Sì, sì. In realtà la partenza da Pisa è stata piuttosto turbolenta perché il tempo, diciamo, non era dei migliori. L'inverno si è fatto sentire decisamente. Nonostante Bologna tutto, è stata sì. dura. Nonostante tutto, la torre è ancora in piedi, ce lo puoi assicurare anche tu che l'hai vista. Onestamente mi documenterò al ritorno. Perfetto, visto che manchi da casa almeno da 2 giorni in questo caso. Vabbè, per la presentazione un po' in giro di quello che è il tuo lavoro, non è nuovissimo, ma se ne sta riparlando in questo periodo, proprio a quella che potrebbe essere definita la vigilia per un lavoro, nuovo lavoro del 2012, ma di questo ne parleremo più tardi. Intanto vediamo di parlare e per bene anche di questa la terapia dei sogni. Questo lavoro che non è stato il primo lavoro di Andrea Carboni, però un appuntamento importante per quella che è la sua musica. Ma partiamo da dove, Andrea? Da quando sei tornato? Perché tu non sei sempre a Pisa. Tu giri tra Pisa e Ginevra, quanto abbiamo capito. In realtà giravo fra Pisa e Ginevra, sono cresciuto... E non sei una cellula del CERN, di quelle che sparano, no? Che magari arriva a Pisa e poi ritorna. Però... sono un derivato loro in qualche modo, ci ho avuto a che fare, diciamo. E, no, sono cresciuto a Ginevra, poi sono tornato a Pisa, dove ho fatto fondamentalmente tutte le scuole. E poi per motivi di lavoro e scelte varie sono tornato in Svizzera e questa cosa è coincisa con la nascita di questo progetto solista, fondamentalmente. Allora, questa terapia, la terapia dei sogni, un album che ha visto la luce nel 2010, anche se esiste anche una data del 2009 scritta nella copertina, che probabilmente fa parte di uno dei passi con cui è stato prodotto il CD. Una copertina che nasce già con un po', come si può dire... Una figura nella copertina che incute un po' di timore, forse, osiamo dire. C'è un soldatino, qualcuno in divisa che si sta sciogliendo nel verde. Come la vogliamo spiegare questa tua visione della copertina? Allora, la mia è giustamente una visione perché intanto salutiamo Luigi Cozzolino che l'ha realizzata. Ciao Luigi. In arte Mu. E lui ha avuto completamente carta bianca, ha sentito i pezzi e dal niente si è presentato con la copertina, mi ha chiamato e mi ha detto vai a vedere la mail, ti ho mandato la copertina del disco, e io sono rimasto veramente colpito da quanto la sentivo veramente mia come copertina. In realtà ora le interpretazioni sono ovviamente personali, in realtà quella che do io è che questo che alcuni chiamano Piccolo Principe, che in effetti è una figura che in qualche modo gli si addice, forse un po' più combattiva come figura rispetto a una figura unicamente nobile come quella del principe, però è che nasce da questo paesaggio scarno. Un paesaggio non che si confonde con esso, diciamo. Un paesaggio, diciamo, da incubo in questo caso, ma noi stiamo parlando di quella che è la terapia dei sogni, quindi scopriremo anche il perché del titolo La terapia dei sogni. Tu avevi fatto però precedentemente a questo disco un EP di 4-5 pezzi, mi pare. Sì, L'amore manifesto, sì. Che era un inizio per fare l'inizio di un percorso che poi si è sviluppato con questo CD. Era un vediamo cosa succede. era come per dire, io avevo questi brani che in realtà sono anche delle cose molto embrionali, sì. Non ci ho pensato molto, io scrivevo quelle cose, in realtà all'epoca avevo band di rock alternativo, facevamo cose più tipo Marlene Kunz, CCCP, uh-huh. Radiohead, un mescolone indicibile. E nel frattempo scrivevo queste cose, non riuscivo a capire che direzione prendere, quindi a un certo punto ho detto, va, vediamo cosa succede, prendo tre pezzi, li metto insieme e li faccio sentire e vediamo che cosa dice qualcuno che non conosco. Ho capito, un folk possiamo chiamarlo alternativo per alcuni versi, non classico, non è un folk classico, no, un po' lisergico in alcuni momenti, un po' oscuro. Per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, ricordiamo che siamo appena partiti per la presentazione del lavoro di Andrea Carboni che arriva da Pisa, l'album si intitola La terapia dei sogni e quindi direi di andare subito ad ascoltare quello che è il primo pezzo che comunque chiude il disco, poi scopriremo anche i particolari da Andrea e intanto ci ascoltiamo il primo pezzo tanto per capire e carpire la musica di Andrea Carboni. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Mostra il vero. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. L'amore manifesto, un primo pezzo tratto dal lavoro di Andrea Carboni che si intitola La terapia dei sogni e questa canzone ci lasciava con il detto l'amore manifesto è un gioco che i soli bambini possono fare, quindi l'emozione dell'amore secondo Andrea Carboni è vissuta in maniera veramente forte e senza paletti, senza tendine, senza altre cose, solo dai bambini, perché poi man mano che si diventa adulto, voglio dire, c'è sempre un qualcosa che trattiene. In un certo senso sì, è molto personale come testo, quindi è veramente legato a un momento che ho vissuto intorno ai 20 anni. I blocchi in effetti crescendo dopo l'adolescente tutto quanto esistono e sono una cosa che non appartengono per niente invece al mondo dei bambini che non hanno problemi né freni a dire le cose che pensano anche a dire, a manifestare i loro sentimenti in maniera aperta, senza pensare a qualsiasi possibile conseguenza che è una... A secondi fini anche, sì. Esatto. Qualche critico ha scritto e ti ha avvicinato, non so se sei d'accordo, a De André, cioè ispirazione a De André, e anche a Benvenu, soprattutto a Benvenu. Benvenu è un grosso musicista, un musicista che guida il discorso dell'indie italiano. Cosa pensi, André? È assolutamente vero, oltretutto sta percorrendo una strada che non è per niente facile, perché... Esattamente. Non dico che sta complicando sempre più le cose, però sta andando verso una ricercatezza veramente, veramente notevole. E quindi tanto di cappello a Paolo Benvenu. Ho avuto modo anche di averci a che fare brevemente per un'apertura a Proiettili Buoni, che è un progetto che era suo e di Marco Parente. Altro musicista indie anche quello, molto interessante, che è un po' scomparso, un po' si è defilato per motivi diversi. E anche dal punto di vista umano, io all'epoca non avevo il disco né niente, è stata una figura quasi paterna, quindi ho una guida, un buon ricordo dire, sia come persona che come musicista di Paolo. E l'importante di Paolo Messere, che ti ha prodotto, che ha costruito il personaggio Andrea Carbone? Paolo Carbone è stato fondamentale, nel senso che il mio disco inizialmente doveva uscire per un'altra etichetta, un'etichetta fiorentina che si chiama Danza Cosmica, con la quale però non è stato possibile continuare il discorso che avevamo iniziato. E quindi mi sono ritrovato con sei tracce in mano che, tramite l'aiuto di quello che è il mio ufficio stampa, ossia Promorama di Pisa, sono finite da Paolo Messere, il quale ha subito apprezzato il lavoro. E subito ci siamo incontrati, abbiamo parlato tanto, e poi sono andato in studio da lui e abbiamo registrato altre 7 tracce, abbiamo aggiunto gli archi, e poi a gennaio, febbraio dell'anno dopo è uscito il disco praticamente. Le altre cose non l'abbiamo detto prima, ma L'amore manifesto, che è la canzone con cui abbiamo aperto la nostra programmazione musicale per conoscere di più Andrea Carboni, è Ironia della Sorte, l'ultimo pezzo, quindi il pezzo numero 13, ascoltando il disco per intero. Ma c'è un segreto, perché l'abbiamo messo per primo, Andrea? Probabilmente perché, riallacciandoci anche al discorso che facevamo prima, il mio primo EP si chiamava L'amore manifesto. Esattamente. Quindi è un pezzo che già esisteva, è nato intorno al 2002-2003, ed è stato inciso per la prima volta in una versione anche un po' più articolata rispetto a quella che è nella Terapia dei Sogni, definito prima nell'EP L'amore manifesto, e poi, dato che lo sento veramente un pezzo che mi appartiene, l'ho voluto riregistrare in una versione proprio cruda per il mio primo vero LP. Bene, ricordiamo la tua che... guida praticamente. Sì. Andrea Carboni non è venuto qua da solo, è venuto qua accompagnato dalla sua chitarra, e quindi ci farà ascoltare anche alcuni pezzi live, quindi per questo showcase acustico, per la presentazione appunto della musica e del disco di Andrea Carboni. Cosa possiamo ascoltare in principio di trasmissione live, Andrea? Potremmo cominciare con Senza disturbare, che sì, è un pezzo che parte piano e piano piano cresce. Bene, allora parte Senza disturbare, poi non disturba assolutamente, anzi benvenuto ancora Andrea. Favole che ho messo a registrare, voglio incidere 2 latti di parole per capire quali truffe conservare. Dimmi che siamo stanchi ed ormai privi di ragioni, dimmi che non c'è più tempo per parlare o andare via. Senza disturbare, da, da, da, da, da. non dire. Ci potremmo accontentare delle carni, sai, potremmo mascherare le mancanze, i nostri intenti e i continui fallimenti. Rimani, non mi serve valutare le distanze, sento spazio per distendere le mie mani ovunque vadan. La tua testa e la tua fiaba. Pensati, è ormai tanto che hai smesso di amare, di amori sensati. È ormai tanto che hai smesso di scrivere, di amori pensati. È ormai tanto che hai smesso di amare, di amori sensati. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Senza disturbare, si intitola così il primo pezzo che ci siamo ascoltati nella versione live, quindi con Andrea Carboni qui da noi dal vivo con la sua chitarra per la presentazione di questo La terapia dei sogni. Abbiamo già ascoltato due pezzi di grande intensità. E qualcuno potrà dire, anzi l'hanno anche scritto, che in certe sonorità Andrea Carboni somiglia molto a Jeff Buckley. Ti senti ancora complimentato dopo che ti abbiamo detto prima di Benvenue, poi abbiamo aggiunto un altro artista, adesso Jeff Buckley? A questo punto, dato che è un po' una cosa ricorrente in questi ultimi mesi, sì, posso dire che è un onore per me sentire un accostamento del genere. Anche se Jeff Buckley non è stato fra i miei più grandi ascolti e spero che non venga a tirarmi le coperte troppo spesso. In un'intervista recente tu hai scritto che in quel momento sentiva Wish dei Cure, sentivi spesso e volentieri Wish dei Cure. Wish tutto il disco? Tutto il disco, sì. Come mai Robert Smith? Cosa ti porta a sentire Robert Smith dei Cure? Perché alla musica dei Cure ha una sensualità pazzesca per quanto mi riguarda. Hanno un utilizzo delle chitarre che io trovo veramente splendido, gli intrecci fra chitarre, hanno tre chitarre, il basso suonato molto a mo' di chitarra. Qual è il pezzo più bello all'interno di questo disco? Di Wish? Sì. Doing the Unstuck. Esatto, quello là. Vediamo se riesco, riusciamo a trovarlo. In ogni caso, continua pure Andrea. È un pezzo che veramente ho ascoltato all'infinito, ma veramente tutto quel disco... lo ami particolarmente. Lo riascolto anche spesso. Perché dobbiamo sottolineare che Robert Smith riesce sempre a cambiare, a modificare, nonostante non tutti i suoi dischi sono di grosso livello, però riesce sempre in tutti i suoi dischi a trovare un momento giusto, un pezzo giusto che fa che risalta praticamente. È un genio, probabilmente un vero fan dei Cure è più fanatico degli album precedenti. Sì, sono d'accordo. Io sono un fan di Disintegration, secondo me è un album capolavoro, però vedi, eccolo qua, è quello? Sì, no, non è quello, però va bene lo stesso, un altro pezzo classico di Cure. L'atmosfera. È l'atmosfera che è quella. Per gli ascoltatori, perché quando nominiamo qualcuno, ogni tanto si fa bene anche a sentirlo in sottofondo. Però per me, mi piace tutta la discografia di Cure, però questa loro fase un po' più pop l'ho trovata veramente, per me, illuminante. Benissimo, tu hai parlato di hai detto una cosa molto divertente, che tua nonna, quando ha sentito il disco, tu gli hai inviato il disco, cosa ha fatto tua nonna? Ha andato a comprare un lettore CD e lo continua a sentire a ripetizione. Apposta. Salutiamo nonna. Ecco, una cosa molto bella, bella. Ricordiamo, a proposito di ascolti, che oltre alle nostre frequenze radiofoniche, la trasmissione è possibile da seguire all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it, cliccando sopra la pagina che riguarda Andrea Carboni, se proprio ascolta l'audio, e noi siamo qui in diretta. Ciao anche a voi, carissimi ascoltatori, via internet. Ricordiamo anche un'altra cosa, che questa trasmissione poi sarà inserita all'interno dei nostri archivi sonori e poi sarà anche pubblicizzata tramite la nostra pagina su Facebook, che risponde al nome di Blu Radio Veneto Rock Wave. Mettete pure il mi piace, anzi, grazie. Ecco, esatto, la cosa fondamentale. Poi ci saranno anche le foto che stiamo scattando durante questa serata assieme ad Andrea Carboni. Andrea, che importanza hanno avuto i live per la trasformazione, per la costruzione di questo tuo disco praticamente? Per la costruzione del disco in realtà niente, perché ho suonato abbastanza prima di andare in sala, però non quei brani. Quindi i brani sono tutti stati un po' pensati prima, al chiuso, diciamo. Sì, esattamente, non dal vivo, non con un pubblico. Esatto. Però quindi il disco fondamentalmente è nato appunto in questo modo, e inizialmente è stato portato live nello stesso modo, quindi con altri musicisti, basso, batteria, violini, viole. Violini e viole, quindi gli archi, hai usato gli archi spesso e volentieri. Esatto, dal vivo. Dal vivo è una cosa molto bella, molto significativa. È molto bella, però per un musicista emergente anche è molto faticoso. È molto faticoso. È anche economicamente pesante. Esatto. Quindi alla fine in questo modo abbiamo solo fatto le prime date di presentazione, e la maggior parte delle date in giro per l'Italia le ho fatte quasi prevalentemente in chiave solista, e questa devo dire che è un'esperienza che mi è stata molto utile, un po' per, diciamo, dominare il palco, vincere alcune paure che magari possono esserci, soprattutto quando magari ti ritrovi davanti a un pubblico abbastanza numeroso o a un pubblico anche difficile, che la cosa difficile non è tanto quando c'è media gente, quando ce n'è pochissima che se ne vanno tipo piano piano, e quindi devi tenerli lì. Quindi uno deve metterti qualche stratagemma intelligente per tenerli. Certo, dei trabocchetti in giro per qua e là per fermarli. Esatto. Vabbè, non serve, perché insomma, tipo, porta male andar via è una cosa che ovviamente non funziona, quindi la sconsiglio di dire a chiunque. Certo, comunque voglio dire, adesso rimarranno attratti da questa musica, perlomeno noi lo siamo, e anzi apprezziamo molto questo lavoro molto molto forte ed energico. E continuando ad ascoltare ancora qualcosa di questo lavoro di Andrea Carboni, La terapia dei sogni, ricordo nuovamente il titolo, e ci ascoltiamo quella che è la traccia numero 9, che si intitola Salviamo almeno le forme. Poi torniamo qui a commentare. Blu Radio Sera. Sottovaluto mai le forme calzate all'interno. all'infuori di me. Non vedo che te mi piace di te, il non condividere le mie follie, che le tue passioni non siano le mie. Quel sacco piantato nell'erba, il tuo respiro che smuove. Che detta il tempo, la pioggia che cade lento in un ultimo ballo con te, ancora un altro e mi perdo di te. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Salviamo almeno le forme, così è il titolo di questo pezzo che ci siamo ascoltati dal disco di Andrea Carboni intitolato La terapia dei sogni. E forse una canzone di protesta, Andrea, visto che dal principio parti sempre come dire tranquillo e poi una versione agitata della tua quasi arrabbiata per fare passare ancora di più il messaggio della canzone. Sì, è un urlo liberatorio, diciamo. Sì, con molto pathos, con molta potenza, con molta irruenza, possiamo dire. Poi adesso chiaramente in versione acustica, ma dal vivo con tutta le altre band, come lo fai un pezzo simile? Dai il massimo, apri gli amplificatori al massimo, certo. Così ti valvolari che prima hai citato a microfono spinto. Sì, anche se in chiave, anche in chiave acustica, mediamente non mi risparmio. Non ti risparmi, cioè tiri fuori la grinta lo stesso. Insomma. Dicevi che in chiave acustica, batteria e da te, cioè chitarra e batteria, chitarra e tutti gli effetti e la batteria. Esatto, è insolito. Dopo aver insolito girato, inizialmente appunto come dicevo prima, ho girato più che altro solista, adesso sto mettendo su questo live in duo assieme a un altro musicista delle mie parti che si chiama Alessandro Santoni, che salutiamo. Salutiamo Alessandro. E abbiamo quindi una parte ritmica di batteria, chiamiamola minimale, quindi timpano rullante e poco altro. E io che come al solito me la giostro un po' fra chitarre, effetti vari, loop sampler e pianoforte. Sì, perché dimentichiamo, anzi ricordiamo che Andrea Carboni è nato prima come pianista e poi come chitarrista. Esatto, diciamo pianista è una parola sì. Forse grande. Tastierista. No, tastierista è brutta. Ecco. Hai cominciato a suonare il piano, ecco. Esatto. Diciamo così. Il piano, sì. Esatto. Diciamo da piccolo era un'usanza, una usanza di famiglia di suonare il pianoforte e l'ho portato avanti questa cosa fino a 14 anni circa e poi l'ho un po' lasciata da una parte per poi riprenderla qualche anno dopo. La composizione di pezzi li componi per piano o per chitarra allora? Quelli per piano, quelli per chitarra, perfetto. Per chitarra. Perfetto. Però è molto più facile che abbia una chitarra fra le mani. Ah, ho capito. E poi ci sono casi particolari come un brano del disco che si chiama Respirare, che è stato inciso chitarra e ultimamente lo suono solo al piano. Ah, ok. Quindi hai fatto una variazione, dall'inizio era così e poi l'hai cambiato, l'hai mutato. Sì, l'ho trovato molto adatto, a una chiave acustica, pianistica. Sì, perché questo tuo disco è fatto da tanti momenti, da tante finestre, quelle più vivace, come ha detto giustamente Flavio, quelle più introspettive, più malinconiche. A proposito di cose malinconiche, andiamo ad ascoltarci un altro pezzo che Andrea Carboni ci fa dal vivo, un pezzo francese che si intitola Des larmes et leur cendre, sarebbe delle lacrime e delle loro ceneri, e dopo capiremo anche il perché di questo e capiremo anche chi l'ha scritta assieme a te la canzone. Va bene, ascoltiamola. Dans un lieu sans vie, debout sur l'astre éteint, que subsiste-t-il? Dans l'affliction, le renouveau, dans le chagrin, la puissance, dans l'être, l'indifférence. À que nous sache destiné ses faiblesses. Sera comme avant, ce qui était unique est compté. L'âme est scindée, pour cela les êtres seront punis, car jamais ils n'auraient dû y toucher. Tout décembre. Tout s'éteint, peu à peu, il ne reste rien, rien que des larmes et leurs cendres. Tout décembre, tout s'éteint, peu à peu, il ne reste rien, rien que des larmes et leurs cendres. Mm. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato questa canzone in francese, De l'Arme et leur cendre, ed è tutt'altro che positiva, soprattutto anche molto attuale, se vogliamo vedere quella frase che dice rien sera comme avant, quindi nessuno, niente sarà come prima, forse è riferito anche alla situazione attuale economica che abbiamo. Cosa ne pensi, Maurizio? Scusa. No, è molto utilizzabile, diciamo, è molto utilizzabile, sì, molto attuale, assolutamente, molto palpabile anche la situazione. Allora, questa, come mai una canzone in francese? Prima abbiamo detto tu sei di Pisa, frequenti anche la zona di Ginevra o di Genève, come la chiamano i francesi, e quindi immagino che questa composizione sia nata lì. Esatto, sì. Come quasi la maggior parte dei pezzi alla fine inclusi in questo disco. Il brano, io ho una idea molto, molto mia della lingua in cui è ideale cantare un disco, e nel mio caso è l'italiano. Mi sono permesso di concedermi un episodio in francese intero, quindi un brano in tutto e per tutto, perché ho una pronuncia presentabile, grazie al cielo. Sì, un'ottima pronuncia, non presentabile, sì. Solamente. E perché il testo in realtà è stato scritto da una mia amica francese che scrive delle cose splendide, che si chiama Melo, salutiamo anche lei. Ciao Melo. È spersa per il mondo da qualche parte. Vabbè, certo, comunque internet arriva dappertutto, quindi... Comunque sentirà sicuramente. Sì. Sì. E aveva delle cose, aveva un blog dove scriveva tanto, e io una sera ero a casa proprio di getto, un brano questo che è nato veramente in un'ora. Così come l'avete sentito. Abbiamo sentito così bene che abbiamo deciso di farlo sentire per un mese consecutivo dalla nostra emittente. Ah, vi ringrazio. Sì, anche perché è un pezzo molto rappresentativo, forse un po' riduttivo inserire solo questo pezzo, perché le certo. sonorità, come stiamo imparando questa sera, sono davvero molte e di varie tinte, però questa, diciamo, merita un pathos molto forte. Adesso l'abbiamo sentita dal vivo, siamo stati anche molto fortunati ad averla registrata, esatto. Perché poi naturalmente quello è quello che rimarrà anche per i nostri ascoltatori, per chi frequenta la nostra pagina su Facebook e i nostri archivi sonori, ma per chi vorrà ascoltarla in una maniera assolutamente bella potrà entrare in possesso di questo CD che si intitola La terapia dei sogni ed ascoltare direttamente la traccia numero 5 dell'Arme et leur cendre. Anzi, forse è meglio partire dal primo per andare verso la numero 13 e quindi concentrarsi sulla traccia numero 5. Come facciamo, Andrea, per entrare in possesso del disco? Ah, è distribuito, quindi tramite Audio Globe, probabilmente nei negozi non è tanto facile trovarlo, però si può ordinare, perché è comunque è in catalogo, quindi si trova sia alle varie Fnac, ordinandolo si trova un po' dappertutto, altrimenti nulla vieta di venirmi a sentire suonare live. Ecco, vedi? Anche se adesso ho un periodo di pausa. E altrimenti io sono disponibilissimo a mandare le copie di persona, quindi mi potete contattare tramite Facebook oppure tramite la mail e quant'altro. Ricordiamo un po' di indirizzi in maniera che gli amici possano vederti anche su internet. Allora, l'indirizzo più facile ovviamente è la mia pagina web, che è www.andreacarboni.it, che non è altro che una facciata con i vari link ai vari social network. All'interno di questa facciata si possono ascoltare già delle anteprime di c'è un'anteprima di questo disco, sì, esatto. E poi ci sono i link al mio canale YouTube con i video, alla mia pagina Facebook dove trovate appunto le varie cose, c'è anche l'indirizzo di posta elettronica per scrivermi personalmente, e MySpace per chi lo usa ancora. Sì, diciamo che ultimamente lo stanno piantando un po' alla volta, però insomma mantiene ancora la sua, sì, il suo scopo, diciamo, anche se molti stanno migrando verso Facebook, che a quanto pare dà qualcosa di più. Sì, in realtà dà di più a livello di contatti. È molto utile, essendoci praticamente quasi chiunque, è molto utile a instaurare un rapporto con, oltre agli amici, diciamo, per un musicista, con i propri ascoltatori. MySpace è diventato molto pesante per questo. Io ultimamente trovo molto difficile anche semplicemente ascoltare le tracce, e non è immediato. Per un musicista ultimamente ci sono cose nuove come SoundCloud, sì, che è ottimo, permette un ascolto veramente a qualità buona delle tracce. Oltretutto, in questo da qualche mese il mio disco è interamente in streaming su SoundCloud, sulla mia pagina SoundCloud. È una recensione, qualcuno ha scritto una cosa molto giusta che dobbiamo sottolineare: niente suoni piatti, niente rime baciate forzate, niente ripetitività nei pezzi, cioè una cosa diversa, è una cosa giusta, ha messo proprio il punto, secondo me, focale della caratteristica di questo disco. Niente non c'è ripetizione nei pezzi tuoi. C'è una variazione pezzo per pezzo, una costruzione momento dopo momento. È vero, però questa cosa alla fine non so quanto paghi a lungo andare, perché alla fine la gente non è molto portata a pensare. Ci sono già diverse preoccupazioni, quindi non lo dico per ovviamente autocriticarmi, perché mi piace scrivere così e mi piace anche ascoltare musica intricata, chiamiamola così, però riesco a condividere l'opinione magari di un ascoltatore medio che ha il riff che torna che lo può aiutare, il ritornello che torna che lo può aiutare in una, magari in un ascolto frenetico, certi brani come possono essere alcuni miei possono, non dico passare inosservati, ma non entrare in testa. Ho capito, però la chiave di lettura, tua è questa qua, però adesso, in questo momento. Sì, sì, ma sarà anche questa. E sarà anche nei prossimi. Perfetto. Bene, allora un po' di pausa per permetterci di ascoltare un altro pezzo, sempre dalla terapia dei sogni. Ricordiamo i nostri ascoltatori che stanno ascoltando Blu Radio Veneto nella programmazione serale di Blu Radio Sera, assieme a Flavio Bilato, Maurizio Calzavara, c'è con noi Andrea Carboni, e assieme a lui stiamo percorrendo alcune tappe di questo nuovo CD dal titolo appunto La terapia dei sogni, e quindi diamo spazio adesso alla traccia numero 3 che si intitola Magici Mondi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato questo Magici Mondi e verso la fine abbiamo sentito forse una collisione o qualcosa che ricordava un qualcosa di molto molto elettronico, e forse non a caso anche Losing Today nel febbraio 2010 ricordava appunto ballate rarefatte, marce dolenti, e si riferiva appunto a Andrea Carboni dicendo: il cantautore pisano assembla un disco dal grande coinvolgimento, rivelandoci una nuova promettente realtà del cantautorato tricolore. Parole forti queste. Molto forti. Molto forti, ma allora... Non facciamoci troppo caso. Sì, sì. No, ma voglio dire, di fronte a queste critiche, e ne avremo sicuramente positive, delle recensioni davvero, davvero buone, di tutti quelli che sono i giornali che ti hanno ascoltato e hanno pubblicato le recensioni, come ti senti? Ti senti... Inferiore, nel senso... Cioè, hai superato la prova, ma la carica che ti danno loro? Ma onestamente, nel momento in cui viene apprezzato, poi il quanto viene apprezzato non contribuisce a gonfiarti in questi termini. Mi fa piacere che alla gente faccia piacere ascoltare la mia musica, e una cosa che mi fa piacere è che sia arrivato nel modo corretto, nel senso che una delle paure che avevamo prima che il disco uscisse era che era troppo, diciamo, particolare per l'ascoltatore medio e troppo medio per l'ascoltatore particolare. Certo, aggiungiamo anche che è sempre più difficile all'interno di quello che viene considerato un sottobosco musicale, quindi di etichette indipendenti e di musica indipendente, e farsi notare, farsi ascoltare e farsi apprezzare, perché alle redazioni di vari giornali o delle varie radio arrivano tanti dischi, per cui, cioè, arrivare al momento giusto, nel punto giusto, ed essere anche ascoltato è un valido traguardo. Sì, veramente. E poi fondamentalmente il mio disco è un cammino, quindi va preso per questo. È un disco che contiene tracce molto vecchie e tracce molto recenti, quindi pretendere da un disco del genere, pretendere ovviamente fra virgolette, di avere una totale, completa omogeneità è una cosa impossibile. Ma se uno lo prende come un raccontare una storia, allora riesce veramente a cogliere quello che succede all'interno di questo lavoro, perché il filo conduttore c'è. Ma tutte queste critiche positive, se tu hai detto, non mi servono, non possono gonfiare, assolutamente no, però fa sotto sotto, se sei apprezzato, fa un piacere che va al di là del discorso della notorietà, secondo me. Il concetto è che fondamentalmente queste canzoni sono la mia vita, raccontata in vari modi. Quindi il fatto che un lavoro del genere venga apprezzato, per me vuol dire che sono riuscito a comunicare quello che volevo comunicare. Esattamente. Quindi l'importante per me, la cosa che effettivamente mi fa contento quando leggo una critica positiva, è che io riesca a leggere nelle frasi di una persona sconosciuta, okay, certo, che mi conosce solo tramite un disco, delle cose che veramente mi si sono scatenate. E il fatto che lui le abbia provate ascoltando il mio pezzo, per me è una grande, chiamiamola, soddisfazione. Sì, ho capito. Quindi è che hai centrato l'obiettivo che ti eri fissato, praticamente. In un certo senso, sì. È quello che è successo anche a noi, no? Quindi ascoltando prima il disco, entrando sempre di più nelle canzoni, e poi finalmente un meritato traguardo per noi e per i nostri ascoltatori, poi, del conoscere la persona di Andrea Carboni. Allora, prima ci siamo ascoltati dal disco Magici Mondi, però c'è una continuazione che Andrea Carboni vuole farci ascoltare in versione acustica, che è L'Ecosistema. Ascoltiamo. Thank you. piccolo ecosistema dove tutti si sentono il re, in quel fragile livido mondo di parola in parola i perché, alla forma del lato corrente della moda che s'ampasserà, gli abitanti dell'ecosistema dell'amore, del bene a metà. Per chi vive nel piccolo mondo dell'amore, del bene per sé, come è stato 1-10, non so bene se ridere o no, della gente del piccolo mondo che sa bene se ridere o no. Preferisco cantare in silenzio, oh, oh. Ed il buio mi fa compagnia, che sentirmi nel piccolo mondo dove tutti si sentono il re. Preferisco cantare in silenzio, ed il fa compagnia, che sentirmi nell'ecosistema dell'amore, del bene per sé. Ti vedo nell'ecosistema dell'amore, del bene per sé. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato questo l'ecosistema, a cantarla per noi qui nello showcase acustico di Blu Radio Veneto è Andrea Carboni, al quale rinnoviamo il nostro benvenuto. Allora, un testo molto introspettivo dove ci si guarda dentro, quindi non è l'ecosistema quello fuori, quello che siamo abituati a conoscere e a darne una giusta definizione, ma è un ecosistema interiore. Tu dici preferisco cantare in silenzio. Difficile da fare. Eh sì. introspettivo al massimo in questo sì. caso. È una riflessione mia e sociale anche sotto alcuni aspetti. Il giocare col falsetto, che è una cosa che io amo particolarmente. Come mai questa introduzione, questo falsetto che spesso e volentieri viene usato da parte tua? Perché mi viene così. No, così naturale. Ma forse perché fondamentalmente mi viene da iniziare a comporre un brano mugolando delle cose poco sensate. E forse più delle volte questi mugoli sono su ottave alte, quindi. E quindi diciamo partiamo da un falsetto che poi diventa più grave e da lì costruiamo il brano. Vediamo di capire quelli che sono i gusti musicali di Andrea Carboni. Prima abbiamo citato alcuni personaggi, alcuni nomi di gruppi, ma vediamo un attimino più nel profondo quelli che sono appunto i gusti musicali e quelli che sono i gruppi o gli artisti che hanno contribuito alla crescita musicale di Andrea Carboni. Allora, spifferiamo un po' di nomi di gruppi abbinati ai dischi migliori che sceglieresti. Da questo punto di vista penso di essere una delle persone più noiose, perché vorrei tanto tirare fuori dal cilindro dei nomi stranissimi. Purtroppo non sono uno che va a spulciare nelle cose troppo. Sono sempre stato uno che ha preso la chitarra e si è messo a suonare, piuttosto che ascoltare tantissimo. Quindi un po' i miei riferimenti, che sono stati molto i Radiohead, per poi andare su cose più tipo Sigur Rós, Mum, Pavement, tutto il cantautorato italiano, per cui diciamo che forse quello anche per certi versi più popolare, quindi De André, moltissimo De Gregori, anche più di De André. De André l'ho riascoltato in tempi più recenti rispetto che non De Gregori. De Gregori, quindi lo ami particolarmente, sì. Insomma. Sì, ci sono delle cose sue, anche relativamente recenti, che ho apprezzato molto. E poi di, diciamo, d'Oltralpe, abbiamo già citato Jeff Buckley, I Cure. Jeff Buckley, I Cure. E uno molto molto bravo che veramente mi tocca è Damien Rice. Sì. Damien Rice, che suonava con... No, ha fatto dei dischi da solista, è un cantautore un po' atipico in alcuni momenti. Ha fatto un disco all'inizio molto bello, il disco di esordio, molto lungo, molto significativo. Poi è stato un momento che non è stato capito nel secondo disco, poi si è rifatto con il terzo album. Come mai Damien Rice? Cosa ti ha colpito di Damien Rice? Il modo di cantare, il modo di interpretare, di colorare, di descrivere i pezzi. Ha delle dinamiche pazzesche, secondo me, ha un utilizzo dell'acustica, sì, molto bello, e fra l'altro penso che sia anche uno dei pochi che conosco che riesce a incastrare una voce femminile in un modo sublime all'interno dei suoi pezzi, che i propri momenti in cui entra una voce di donna nei brani suoi si apre veramente qualcosa di speciale. Stiamo ascoltando in sottofondo qualcosa di Damien Rice, Cannonball. Ecco, quella famosissima che ha fatto conoscere in tutto il mondo, esattamente. Bene, allora abbiamo capito quelli che sono i gusti musicali di Andrea Carboni, le sue, come dire, da dove si è coinvolto maggiormente con la musica. Adesso ci ascoltiamo un altro pezzo dal CD La terapia dei sogni, poi torniamo qui in diretta a commentarlo, sempre su Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Yeah. se vuoi, se vuoi, se vuoi. Le notti aspetterò, le note che vorrai tenere per me, respirare, respirare, respirare. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio, Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato anche questa Respirare, a proporcela Andrea Carboni. Il suo lavoro che stiamo ascoltando si intitola La terapia dei sogni, e legato a Respirare c'è anche un video. Siamo fortunati ad avere qua proprio Andrea Carboni, perché vorremmo capire qualcosa di più di questo video. Vogliamo spiegarlo agli ascoltatori cosa potranno vedere collegandosi ad internet? Certo, allora, questo video fa parte di una trilogia che è stata realizzata da Davide Abate, che è un bravissimo regista pisano, e ho voluto fare questa cosa. Sono tre video live, quindi l'audio è in presa diretta e il video è molto curato, sembra, soprattutto il video di Respirare per l'appunto, sembra quasi un videoclip a comparse e quant'altro. Questa è stata una scelta mia molto forte, un po' diciamo ricollegandoci al discorso che facevamo prima sul fatto che io fondamentalmente ho suonato molto da solo, mentre il disco è molto prodotto, che ci sono un sacco di cose dentro. Volevo fare dei video che chiudessero un po' il discorso della terapia dei sogni e in cui si vedesse cosa sono io a nudo, quindi senza effetti, senza niente, solamente uno strumento che in due video, quelli di Senza Disturbare e Ti Riterra dall'amore di un minuto, è la chitarra, e nel video di Respirare invece la versione è inedita perché, a differenza di quello che abbiamo sentito poco fa, è eseguita pianoforte e voce. Ok, c'è una variazione. A proposito di questo pezzo, dobbiamo dire che è un pezzo molto particolare, anche come ambientazione, l'idea di questa ambientazione un po' rarefatta, non dico psichedelica, però poco ci manca, insomma. Cosa dici? Sì, è molto evocativo. È evocativo, sì. Anche negli ascolti mi dava proprio questa sensazione sospesa. E appunto per quello noi, il nostro direttore artistico, che salutiamo, Alberto Pisco, ha voluto stasera Andrea qua per presentare il disco, e salutiamo anche la Rossella che vediamo tutte le mattine, vero Flavio? Sì, tu la vedi tutte le mattine. Vedo io tutte le mattine. Ti fornisce i tuoi quotidiani. E anche i giornali musicali. E anche i giornali musicali, naturalmente, per essere sempre a conoscenza di come va il mondo musicale. A giudicare dalla musica di Andrea Carboni, direi che sta andando proprio bene. Decisamente bene. Tra altre cose, bisogna dire che la copertina della terapia dei sogni, che già abbiamo descritto prima, con questo omino che si sta quasi sciogliendo all'interno della copertina verde, un omino anche vestito elegantemente, se vogliamo dirlo, e all'interno della copertina c'è proprio un insieme, c'è un patchwork con tutti i testi delle canzoni in un apparente senso confusionale, no? Vogliamo dire così, e dove sono comunque scritti senza il titolo sopra. Senza il titolo e senza punteggiatura. E senza punteggiatura, per cui una cosa continuata. E senza ripetizioni. Nel senso, magari succede che uno ripeta più volte un ritornello, perché volevo che fosse una cosa, una lettura continua di... Ora, dire poesie e dire troppo. Però volevo che fosse una lettura di pensieri, chiamiamoli così, e non veramente il testo di una canzone. Quindi ho voluto fuggire le classiche cose, strofa, ritornello, lettere maiuscole, virgole. È una cosa che uno si può tranquillamente leggere mentre ascolta il pezzo, piuttosto che leggersela e basta. Certo, vogliamo ricordare anche gli altri musicisti che hanno partecipato in questo tuo progetto. Certo, li salutiamo. E, sono Alessandro Baris, che ha suonato la parte ritmica. Poi c'è stato Paolo Messere, che ha dato un contributo sia vocale che strumentale, quindi ha suonato anche il basso. Mm-hmm. Che è anche praticamente quello che ha diretto l'etichetta praticamente. Mm-hmm. E poi abbiamo Andrea Cattani, che ha diretto, diciamo, la sezione degli archi, quindi ha curato tutta la parte relativa agli archi. Elisa Pieschi. Ecco, anche, sì, anche Lisica Pieschi, che appunto al violoncello, che ha suonato il violoncello. Bene, quindi no, non ci sono se non il pianoforte, il piano di Andrea Carboni, non sono presenti altri sistemi elettronici se non le chitarre elettriche, appunto questi violini, diciamo, per rendere la cosa ancora più acustica, sì, come si ricordava prima. Ricordiamo anche l'etichetta, Andrea, visto che c'è Red Birds, che è una sussidiaria di Paolo Messer, certo, ed è, diciamo, una costola, sì, di Seahorse, che Seahorse è più improntata a progetti un po' più elettrici, più a band, diciamo, sì, esattamente, nel vero senso del termine, mentre Redbirds è una cosa nata per cantautori, progetti solisti, cose un po' più particolari da un certo punto di vista, cose più acustiche, sperimentale anche a volte. Ecco, possiamo dire anche qualche volta sperimentali. Non è il tuo caso, ma può anche essere il tuo caso in qualche momento. Bene, adesso andiamo ad ascoltarci in versione live quello che in assoluto è il titolo più lungo dell'intero album, ovvero Tiritera dell'amore di un minuto. Ecco, adesso l'ascoltiamo per la chitarra e la voce di Andrea Carboni e poi torniamo qui in studio a commentarla. Forse non sai che almeno in parte ritrovo in te un pezzetto di me. Forse non sai che, certo non sai che. Conservaci dentro di te e trovano il vento e tentennano come foglie fatte da me verso di te. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un brano molto sofferto questo, Tiritera dell'amore di un minuto, e dal titolo non si sarebbe mai detto di arrivare a questa profondità e, diciamo, a queste parole quasi tirate fuori per forza dalla melodia. Quindi questa tiritera come si sposa con il pezzo poi proposto? Diciamo che uno gli deve trovare un titolo che uno diceva sentiamola. Si diceva tragedia del lavoro di un minuto, non andava. No, poi certo. Comunque è una canzone, alla fine è l'unica vera canzone d'amore del disco. Io ci vedo della positività. Oltretutto ci tenevo a farla come l'ho fatta ora, perché si chiamava Tiritera dell'amore di un minuto perché inizialmente durava proprio un minuto. E nel disco è stata arricchita da una parte di violini centrale, tutto un discorso molto evocativo, però è nata come l'ho fatta adesso per voi. E era proprio un discorso breve da dire, una cosa che sentivo di dover esprimere così immediatamente, toccata e fuga, insomma. Sì, esatto. Poi alla fine il mio approccio con le canzoni d'amore deve durare meno di 2 minuti, perché già ne scrivo poche. E ritengo che cantarne troppo in modo manifesto sia un po' stucchevole. Va bene, lasciamolo fare ad altri cantanti. Ci sono tante che cose vivono, che esprimono meglio. Certo, certo. Questa cosa che troppe parole. Certo. Allora, la terapia dei sogni, abbiamo già spiegato come fare per entrare in possesso. Comunque è un disco che assolutamente merita di essere ascoltato. Anzi, ascoltandolo solo una volta non si percepisce ancora fino al profondo dove vuole arrivare Andrea Carboni. E abbiamo ancora un bel po' di minuti da passare insieme e chiediamo ad Andrea se vogliamo ascoltare un altro pezzo dal disco, e quale, quindi diciamo stiamo arrivando, potrebbe andare stanno bene. Arrivando, sì. Stanno arrivando, stanno arrivando, ecco qua. Allora ce lo ascoltiamo e poi torniamo qui in diretta dagli studi di Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Stanno arrivando un pezzo, un impatto che non si sapeva bene dove si voleva andare a finire, una confusione tipo quel noise che si vuole apportare quando c'è proprio quel rock intenso e che turba un attimino, una confusione controllata proprio in mezzo al brano, che poi parte con questa rullata molto densa e che perseguita un attimino l'ascolto. Sì, esatto. Stanno arrivando. È un mélange di cose, ma ci tenevo veramente tanto a inserirlo nel disco, perché è rappresentativo di tante cose. Veramente è un pezzo dove ci sento un po' effettivamente le mie influenze, sia da quelle un po' più brit che a quelle più cantautorali, sia a quelle mie personali. È un buon connubio, una buona somma di quello che sono. Anche quelle molto accelerate, molto dure, molto corpose, come alla fine sembra la voce sia quasi soffocata da questa batteria, questo rullato, come giustamente ha parlato Flavio. Sì. Citiamo un'altra pagina di Loud Vision del marzo 2010, che appunto, citando le canzoni di Andrea Carbone, diceva: liriche ermetiche quanto basta per farsi amare dai più ricercati, affogate in una produzione cristallina e diretta, coperte da un'ombra di decadentismo e sorrette da musiche arrangiate minutosamente. Tutto questo l'abbiamo ascoltato in questa serata che ancora non ha termine, anzi ci stiamo quasi prendendo gusto, anzi sicuramente ci dispiace che tra pochi minuti vada a finire tutto, ma comunque queste registrazioni restano all'interno della nostra pagina di bluradioveneto.it, quindi cliccando sulla pagina riservata ad Andrea Carboni si potranno vedere sia le foto scattate in questa serata, sia diciamo questa registrazione, così come è andata, e direi bene. Tu non hai visto Flavio, una cosa molto bella, significativa, gli ascoltatori devono saperlo. Andrea stava provando la posizione dei tasti della chitarra, stava provando il momento in cui deve suonare. Una cosa bella, una cosa significativa, è tutto dal vivo, assolutamente vero Andrea, è così. Verissimo. Assolutamente sì, anche perché poi l'ultimo pezzo, che non sarà subito ma dopo un altro che ascolteremo dal disco, lui si sta già preparando con la chitarra perché c'è un'accordatura nuova, ma magari ne parleremo più tardi. Ok. Allora, cosa inseriamo adesso? Mettiamo la traccia numero 8? Va benissimo. Quindi la traccia numero 8, vogliamo commentarla un attimo prima di ascoltarla? Volentieri, la traccia numero 8 è Livido, ed è un pezzo che in un certo senso sento molto affine all'Amore Manifesto, perché diciamo l'Amore Manifesto è la descrizione un po' della parte sentimentale, diciamo, di un rapporto, e Livido, anche se non sembra, ha un contenuto sentimentale molto forte, dove prevale però una parte quasi rabbiosa nei confronti del rapporto. Quindi un'altra maniera per vedere l'amore, quindi con questo Livido. Allora l'ascoltiamo, e La terapia dei sogni con Andrea Carboni, e questo si intitola Livido. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Come infezione potrei male e nutrirsi del male. Nutrirsi del male. Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato anche Livido con Andrea Carboni e il suo lavoro che si intitola La terapia dei sogni. Abbiamo già commentato prima di ascoltare quella che era un po' l'intensità e l'argomentazione riservata a questa canzone, appunto, Livido. Un'intensità, un'argomentazione che a me ricordava, al di là del discorso che faceva Andrea, ricordava cose molto libere, una musica, possiamo citare gli Area così proprio lontanamente, libere in tutti i sensi, cioè senza preclusioni, senza preconcetti, senza barriere, molto libere. E forse Andrea porta avanti un discorso di questo genere, a mio parere. Sì, allora Andrea, non abbiamo parlato ancora di quello che è il tuo brano inedito Magari. Vogliamo parlare anche di questo progetto, proprio è un tuo pezzo che si intitola Magari. Esatto, è uscito dopo La terapia dei sogni ed nasce come un, diciamo, nasce come facente parte di un progetto che mira la sensibilizzazione verso il problema relativo al disagio in generale e in particolare è riferito ai portatori di handicap. Sì. E, è un'associazione che si chiama Con questi occhi, che è portata avanti da Cinzia Chiarini e Luca Gennai. Luca Gennai è il direttore artistico di questa iniziativa e ha selezionato 16 pittori italiani e 14 musicisti. Siamo veramente tanti e a ciascuno è stato chiesto di realizzare un'opera, ovviamente ai musicisti una canzone e ai pittori un dipinto che rappresentasse in qualche modo il disagio però visto in senso assoluto, quindi non legato a una particolare condizione, quindi dato che il disagio è una cosa totalmente soggettiva e che riguarda tutti quanti indifferentemente, ogni artista ha espresso quello che per lui questa tematica rappresentava. L'altra cosa è che questa compilation è uscita anche su LP, quindi su vinile. È uscita esclusivamente su LP. È un LP, fra l'altro è un formato molto bello, se potete contattare tramite me Luca Gennai per averne una copia. Si trova distribuito in questo momento in tutta Europa. Non ricordo il nome del distributore in questo momento, però ovviamente contattandomi è facilissimo entrarne in possesso e contiene appunto un vinile con le 14 tracce e contiene anche un catalogo molto bello con la riproduzione delle opere pittoriche che originariamente sono dei dipinti su tela 90x90 riproposti all'interno di questo catalogo, con poi la biografia di tutti gli artisti, la descrizione del progetto e tutto quanto. Benissimo, allora abbiamo parlato con Andrea Carboni, abbiamo conosciuto la sua musica e lo ringraziamo per per essere stato con noi. Grazie Andrea, ci hai veramente allietato in quest'ora e mezza in cui siamo stati insieme, ci hai aiutato a fare chiarezza sui tuoi pezzi, che comunque sono sempre molto molto validi, non facili al primo ascolto, ma non è la classica canzonetta, è proprio una canzone con la C maiuscola e molto molto robusta anche nel tempo. E allora Maurizio, brevemente, per domani sera cosa vuole, sì, in pentola? Domani sera vuole in pentola Germano Bonaveri con un disco nuovo che è uscito da qualche mese, verrà a presentarlo qui da noi con la regia di Michele Toson e la mia conduzione. Giovedì ci sarà festa, giovedì è festa dell'Immacolata, sì. Però venerdì avremo in diretta telefonica Arturo Stalteri, la presentazione del suo disco dedicato al Natale, e avremo in studio Vannuccio Zanella che con me condurrà questa trasmissione per parlare di questa iniziativa di Arturo Stalteri dedicata al Natale. Quindi domani sera Germano Bonaveri assieme a Michele Toson in regia. Benissimo, allora ancora grazie ad Andrea Carboni, però non te ne andare subito, mi raccomando, c'è un'ultima canzone, però dobbiamo spiegare prima cosa hai fatto. Cosa sto facendo? Mentre andavo un altro disco, tu ti sei preso un po' di tempo per non riaccordare la chitarra, ma per dare un'altra tonalità alla stessa. Sì, esatto. Ho riaccordato fondamentalmente la chitarra in un'altra tonalità, poi ci sono varie complicanze perché c'è anche il capotasto di mezzo, quindi la chitarra si riscorda. Poi oltretutto questa accordatura ha le corde molto morbide, quindi tende a scordarsi anche mentre suoni. Però il pezzo che vado a fare è appunto La terapia dei sogni, e ci tenevo a suonarlo oggi perché appunto con oggi un po' si chiude tutto il discorso che riguarda la terapia dei sogni, dato che non prevedo altre cose live dopo di questa, fino a che il discorso sul disco nuovo non sarà chiaro per me. Bene, allora l'ascoltiamo, La terapia dei sogni, proprio la canzone che dà il titolo al lavoro di Andrea Carboni. Allora noi lasciamo i microfoni aperti ad Andrea e ci allontaniamo proprio per ascoltare questa sua ultima canzone. Quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, solito grande e caloroso ciao, buona serata, vi lasciamo con Andrea Carboni e la sua Terapia dei sogni. Grazie. Spiegare il valore che ha, disegnala tu la linea migliore che nasce da te e limita me, favola mia, conservo una rosa ovunque tu sia, lasciati. correre. La terapia dei sogni, terapia dei sogni. Pelle su di me, Blu Radio Sera, Blu Radio Sera, Blu Radio Veneto.